One, two, three, four. Lur, hey fanted lur, balos e canaia, barboni d'utur, sisteme nel mund, in tanchi andre a mangià, diventen gentil quanti treven de ciulà, sempre incazzà con la faccia verda, sempre pront, avent anche la merda, sempre pront a fa la roba giusta. E per le dregan sempre uscia la frusta. Van in Thailandia in lesco i tusanet, picchè la sua perché fuma i sigaret. Van in Thailandia in lesco i tusanet, picchè la sua perché fuma i sigaret. E disen por Italia, por Italia, e disen por Italia, por Italia, e disen por Italia, por Italia, por Italia, prunta la cruz per chi che sbaglia. Spara a chi prova fa qualcos, appena che un problema la buten in den fos, appena le va su se caga in ados, le la filosofia per credeve sbalos, e se scandalizzen perché ghe la guerra, e buten giù i fion della rudera, te varden crepa, con scia una cinepresa, e poi se sconden dent in gesa. Gli ha rubato quel che era de rubà, gli ha metto in galera e attacca a caragna. Gli ha rubato quel che era de rubà, gli ha metto in galera e attacca a caragna. E disen por Italia, por Italia, e disen por Italia, por Italia, e disen por Italia, por Italia, por Italia, pronta la cruz per chi che sbaglia. Se va ma qualcos, che l'han col governo, se va ma tu cos, che l'han col padre eterno, se il fa cold, i vero in l'inverno, se il fa fresh, chi va che in all'inferno, vero la calma e fando ma casot, crumpen tu cos e che va mai ben a got. Dicen che lur c'ha ben ordine denisen e fan tut quel che gand in televisione. Passa la vita pissa contro il vent, perché l'importante mai ves content. Passa la vita pissa contro il vent, perché l'importante mai ves content. E disen por Italia, por Italia, e disen por Italia, por Italia, e disen por Italia, por Italia, por Italia, sempre in prima fila con finis la battaglia.